Siamo qui per riprendere i lavori. Ieri è stata una giornata molto intensa e, come si è presentata, è uno dei migliori convegni di queste materie qui che io abbia potuto frequentare, anche perché ha toccato molti problemi, molti temi di un'enorme importanza e che avranno sviluppo in seguito. Tante volte abbiamo assistito, partecipando attivamente a convegni, poniamo, di esegesi biblica, ma il problema della traduzione del testo saltava sempre via perché erano altri interessi, come se si potesse parlare di esegesi senza il fondamento testuale. Congressi, convegni anche sempre per le traduzioni di intonazione classicistica, eppure rimasi un po' inorridito per tante cose che uno può tradurre senza anche conoscere il greco, il latino o via. Qui invece le cose sono molto diverse. Qui sono stati felici gli organizzatori. Monsignor Roger è sempre geniale, le cose le vede sempre radicitus, e tutte le cose che lui fa c'è sempre un qualche cosa di nuovo e poi che si sviluppa. Dobbiamo ringraziare Menestrino, Moreschini, tutti quelli che hanno organizzato. Non è stata un'organizzazione non pensata, non, diciamo, seguita sino in fondo. Ieri abbiamo visto che giornata meravigliosa per i risultati. Naturalmente ci sono ancora altre cose da dire, da fare, ma questo poi in seguito si vedrà. Ne credo che Trento finirà con questo convegno per le traduzioni dei testi. Si può anche avere un seguito, non lo so, loro sapranno meglio di noi. Anche problemi delicatissimi sono venuti fuori ieri. È stato utile l'intervento di Monsignore Boff, ma tutti gli interventi sono stati meravigliosi. Certo, anche l'argomento delicato della traduzione dei testi liturgici, dei testi che riguardano il vivo dell'Eucaristia, tutto è stato toccato. Naturalmente questo avrà uno sviluppo, perché mai come ora c'è grande libertà nella Chiesa, nelle congregazioni romane, sembrano dei tabù, ma se uno le vede da vicino le cose, sono molto diverse. Siamo noi un po' più pigri, perché noi siamo chiamati, come studiosi, a dare il nostro contributo, che spesso viene meno perché c'è un tabù oppure ci sono delle prevenzioni, sono questioni loro, dei sacerdoti, è bene che facciano loro, noi ci disinteressiamo. Invece no, io ho una certa pratica, faccio parte della consulta per la congregazione dei santi, non vi nascondo che la libertà che ho lì nella discussione, quando ci troviamo con il boliviano, con il nigeriano, tutte le parti, ci si trova proprio al nostro agio, perché c'è una grande libertà, per dire, questo, ci meravigliamo che ci proponga questo. E sono davanti quelli responsabili della congregazione. Cioè, noi saremmo chiamati a dare più contributi. Ricordo, prima che Noè, ora cardinale, passasse, diciamo così, a San Pietro, come San Pietro, che ora non c'è più il sacrista di San Pietro, che prima era un vescovo agostiniano, ora è lui che ha avvocato tutto. E una volta gli parlai proprio da cuore a cuore, ma com'è possibile quelle traduzioni a proposito, tu che togli i peccati del mondo, tutto il mondo quando la mattina si celebra la messa, tu che togli i peccati del mondo, non è possibile. Sì, me l'ha detto anche qualche altro, però mi faccia la nota. Gli feci la nota, ma dopo pochi mesi, un paio di mesi, divenne cardinale, lasciò l'ufficio del culto divino. Oh, bisogna ricominciare tutto da capo. Comunque, questi sono dappertutto degli inconvenienti che nell'amministrazione si trovano. Però occorre la nostra presenza più attiva. Non sono dei mostri che ci mangiano, loro vogliono questa collaborazione. E questa collaborazione la dobbiamo dare. Quindi, come ieri si è parlato di questi testi che lasciano un po' a desiderare, noi dobbiamo suggerire qual è la vera traduzione. Potete scrivere lo stesso al culto divino, dove voi volete, persone che può portare anche a mano, però dobbiamo adoperarci, perché le congregazioni non sono dei mostri. Io prima pensavo, è difficile lì com'è la storia, poi quando uno è dentro si accorge che tutto è possibile. Questo tanto per dire come è stato importante il nostro convegno, che può arrivare dappertutto e portare una voce piuttosto autorevole di tutti gli studiosi che vi hanno partecipato.